Viaggia di qua, viaggia di là. Stavolta ci siamo imbattuti in un viaggio nel tempo. Totalmente inaspettato e presi dalla nostalgia più totale, torniamo nei gloriosi anni Ottanta. Abbiamo seguito un po' la moda di quei tempi, dove le regole le dettavano i paninari, tra bomberoni, Timberland e cintecarro. Assidui frequentatori di fast food, che iniziavano a riempire le città italiane, erano ossessionati dai prodotti made in USA. Noi prendiamo un po' di quel made in USA e lo usiamo per il panino, perché per il resto ci piace tutta la nostra italianità. Quindi ecco il protagonista di questo appuntamento, il sofisticato pane bun, cocktail di gamberi e insalata. È perfetto per l'inizio dell'estate. Vogliamo mantenere il nostro solito format, quindi abbiamo abbinato tre cocktail che sono nati proprio in quegli anni, più lo shot che viene bevuto ancora oggi, il B52. Quindi, pronti a salire sulla DeLorean per questo viaggio nostalgico? Un detto dell'epoca dice, cioè, a me piace. Grazie per l'ascolto.